Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Ieri sera abbiamo visto come a Verona sia stato attivato un servizio che permette ad alcuni veicoli equipaggiati con una centralina che è in grado di scambiare informazioni con l'infrastruttura stradale secondo certi standard europei, di ricevere tutta una serie di informazioni sullo stato dei semafori, grazie alle quali è possibile regolare la velocità in modo, per esempio, da trovare i semafori verdi, disporre di un conto alla rovescia che dice quanto manca al verde, ricevere un avviso in caso ci si stia avvicinando troppo rapidamente a un incrocio mentre rischia di scattare il rosso. Questo per fare degli esempi. Ebbene, questo servizio è nelle intenzioni del Comune di Verona, il primo, e non solo del Comune di Verona, il primo di una serie basati sullo scambio di informazioni tra veicoli circolanti e infrastruttura stradale. Tema di cui abbiamo già parlato altre volte e che Verona ha affrontato con un approccio un po' diverso da quello della maggior parte dei comuni. Ne parliamo con Bruno Pezzuto, che è responsabile della centrale della mobilità del Comune di Verona. Buonasera Pezzuto, bentornato. Salve, buonasera a voi. Allora, dicevamo, un approccio un po' diverso, un po' al contrario per certi versi. Sì, esatto. In questo senso il passaggio che noi abbiamo fatto in questi ultimi anni è stato quello di investire quelle poche risorse che abbiamo a disposizione sull'infrastruttura. Quante, per curiosità, me lo può dire? Dunque, da quando siamo partiti dal 2007, diciamo un 4 milioni di euro, okay. Euro più, euro meno. E abbiamo fatto questi investimenti sulla nostra infrastruttura, abbiamo realizzato diversi sistemi che normalmente si trovano nelle grandi città, come la centralizzazione semaforica, pannelli a messaggio variabile, sistemi di indirizzamento ai parcheggi, cioè quanti posti posso trovare in un certo parcheggio e così via. Ci siamo dedicati soprattutto a questo, a mettere in piedi il sistema e a fare in modo di costruire un centro di elaborazione dati. A questo punto noi siamo in grado oggi di offrire servizi all'utenza sulla base dei dati che siamo riusciti a costruire nel tempo. Restituendo agli utenti i dati che loro generano in modo che possano essere utilizzati utilmente, no? Certo. Ecco. Sono delle elaborazioni che noi facciamo e restituiamo attraverso le applicazioni che stiamo sviluppando, partendo proprio dalla comunicazione veicolo-infrastruttura, e sono informazioni di vario okay. tipo, cioè che servono al cittadino che si muove all'interno della città. Ecco, però lei diceva che Verona ha avuto un approccio diverso, perché gli altri invece che cosa hanno fatto tipicamente? Ma spesso accade che sul tema delle smart city si parta dallo strumento, cioè ho lo strumento, ho un'applicazione, vediamo di caricarci dei contenuti che spesso magari mancano oppure non si ha la possibilità di raccogliere così facilmente. Il nostro approccio invece è stato, ci siamo dedicati a infrastrutturare quello che avevamo a disposizione e adesso possiamo eventualmente dedicarci a come fornire, come restituire queste informazioni. Cioè, non vi siete troppo domandati esattamente come sarebbero stati utilizzati alla fine quei dati. Dotati di un'infrastruttura in grado di generarli e poi lasciate un po' anche agli altri di utilizzarli. Però detto così, no? Può sembrare che vi siete infrastrutturati a caso, no? Avrete applicato qualche criterio. No, certo, abbiamo seguito sostanzialmente dei criteri standard internazionali europei che riguardano gli ITS, cioè l'Intelligent Transport System, e tutto questo poi ci ha consentito, per esempio, di partecipare a un progetto europeo che si chiama Compass4B, che è partito a gennaio di quest'anno e durerà 3 anni, si concluderà a Bordeaux al congresso internazionale dell'ITS. Ecco, noi abbiamo fatto l'esempio dei semafori anche nella puntata precedente. A questo proposito, su quali altre ipotesi state lavorando? Beh, partendo dall'esperienza anche del progetto europeo, stiamo pensando per esempio di allargare, estendere le funzionalità dell'applicazione che stiamo sviluppando per i veicoli anche a chi si muove a piedi o in bicicletta o con il trasporto pubblico. Come? Attraverso il dato che l'applicazione che è scaricata sugli smartphone restituisce al centro in forma anonima, e quindi la posizione, la velocità e la direzione dello spostamento. Ok, cioè uno si mette questa app sul cellulare, a questo punto il cellulare in forma anonima comunica: io sono il signor nessuno, però mi muovo nella tal direzione e alla tal velocità. In questo modo noi, siamo in grado di capire se si sta spostando con una macchina, un veicolo oppure in bicicletta o a piedi. E a questo punto, per esempio, agli incroci, dove naturalmente c'è il rischio di incidentalità, noi inviamo un messaggio ai diversi apparati che si stanno avvicinando per dare una sorta di allarme chi sta in macchina, attenzione che ti ci sta arrivando una bicicletta, un ciclista, certo. E al ciclista, attenzione che magari stai procedendo contro. Sei in rotta di collisione con un tir. In rotta, no? Di collisione. Grazie Bruno Pezzuto. Grazie a voi, arrivederci.